Mi ha messo un po' di ansia adesso, perché ultimamente il nostro ex CCB, per capirci, stava di nuovo dormendo in macchina. Addirittura, no, beh, non la frattesi, ho capito di che stai parlando. Stavo dicendo, dice, hanno trovato una persona morta, dice, un uomo calvo, dice, con la testa calva, dall'apparente età 30 anni, 32, 33, boh, ed era in una piazzetta, quindi stavo dicendo questa signora, poi io ho ascoltato, mazza, non stavo parlando con me, non ho chiesto niente, capito qua? Riprendo io che Gianni è sceso un attimo dalla macchina. Sta che quello ci vuole. forse, boh, chissà, ma comunque ogni momento se ne sente una, anche questa adesso non ci voleva nemmeno quella, speriamo che non si abbiano fatto niente gli occupanti della macchina o chi lo sa, boh. No, è capito un attimino, Gianni Scese c'è che gli ha capottato la macchina davanti. Ma come si fa a capottare? Ci vuole a fare i matti sicuramente. Sì, sicuramente stanno facendo gli scemi, allora succede la disgrazia così, ma comunque. Avanti Capri 2. E ok, noi ne ho visto io cosa state. Mi ferma il pericolo, fuma, quando andavo a portare i ragazzi in piscina, stavo poi. E ogni tanto qualche spericolato, capito, lo vedevo e speriamo che non ci abbiano fatto nulla. Perché ci sono, io a mio figlio l'ho detto sempre, andare piano, essere prudente, cioè ragazzi ci siamo stati tutti, anche io ho fatto la fatica, però a uno a mettersi a fare, come si chiama, in città, si è accapottato, vuol dire che stava camminando, e ripetita. Poi è un'abitudine di piazzare scegli, di mettersi a fare gincane, no? A fare gli scemi, sicuramente è sfuggita un po' la situazione di mano, non so, vediamo cosa ci dice Gianni, se si sono fatti male, ui, questi ragazzi, per carità, bisogna stare sempre con gli occhi aperti, altrimenti è un casino, avanti e giù. Ok, qua, sì, in effetti è così, sono troppo scelerati certi ragazzi, perlomeno io suppongo che sia qualche ragazzo lì proprio della Piazza dei Segni che fanno le gincane, come hai detto tu, fanno gli stupidi per farsi vedere, per farsi notare dagli amici e poi succede quel che succede. Oi, povera gioventù, sei veramente un giovane questo? Non è possibile. Non è possibile veramente, guarda, no. Cosa vuoi che ti dica? Sono delle situazioni queste assurde, cioè che con le quattro ruote non si può capotare, salvo proprio un eccezionale imprevisto alla macchina o un ostacolo improvviso in una curva che magari c'è qualcuno fermo, vai a scartarlo così di colpo, stirsi e magari proprio per non sbatterti, e allora può succedere, ma crearsi un incidente solo per fare gli stupidi è proprio la deficiente nella stessa parola. Come ieri notte qua dall'incrocio, cioè, è passato un ubriaco, è passato, si sono battuti all'incrocio e poi ha danneggiato altre due macchine che c'erano parcheggiate, perché è finito anche contro le macchine e contro un muro. Poi questo tranquillamente ha preso, ha rimesso in moto e se n'è scappato in Briago, uno che abita qui alle Punti, si chiama Sergio Tiala, si chiama, è conosciutissimo qui alle Punti, ma è un ubriacone proprio da sempre, capito qua? Poi ne va la incrementare gli altri, di quelli che sono lì tranquilli, magari sul marciapiede, che sono sicuri di poter star bene, capito? Ti scappa di mano la macchina lì, sali sul marciapiede, ammazzi quanto è. E poi c'è un incidente che causato proprio da queste grandi stronzate che fanno questi ragazzi. Assurdo veramente, le robe. Cosa vuoi dirti? Vediamo un po' se riprende Gianni Doppio Rum, il Doppio Rum ci sei. Riprendi tu Capredo. E un certo Sergio di questi abitava al mio paese. Non è che quello, il cognome adesso che ho questo segno, me lo ricordo però il cognome giù. All'inizio di questo studio di Arma, che un buon posto di prima lavorava all'ufficio del genere, poi l'hanno spostato all'inizio, proprio si pigliava sgombri, guarda, pericolosissimo. Non è che quello, no? Sì, Gianni, già è quello, che abitava lì, abitava da quelle parti di casa tua, sposato, separato, e adesso la moglie l'ha mandato via perché non ne poteva più, era sempre il bronzo, capito? Sicuramente quello, guarda, sicuramente. Sassari, perché viveva proprio in un paese vicinissimo a Sassari, adesso non mi ricordo se è Usini o se è Muro, però viveva in un paese così, sicuramente è quello, guarda. Già è lui, già, lui mi sembra che era di Aspeto, di Cuglieri era lui. Beh, questo non lo so, la famiglia abita qui nel rione dove sono io, qui, e dunque i fratelli sono idraulici, insomma, perché poi tra l'altro il fratello è quello che ha in gestione il campo di ripunti, uno dei fratelli, ma quello è serio, e anche lui non è che sia cattivo, per carità, solo che ha il vita di bene, e quando beve non capisce niente, e fa danno e basta, capito? Tutto lì, riprendi. E già è lui allora, già è lui, perché mi ricordo che venivano i figli là, è lui è, capito? Una volta io non sono uscito, però era sano, senza conoscerlo, che io sapevo che era un funzionario dell'ufficio del tesoro, siccome chiamavo un altro mio paesano che lavorava lì, e questo mio paesano me l'ha rappresentato, siamo partiti con la macchina sua, che aveva una Nissan Micra, siamo andati al Mosaico, inizia a bere questo, inizia, ha avuto questo, poi la macchina l'ho portata io, dal giorno lui faceva gli spettacoli in paese, foto proprio, con gli occhi di villa. Ok, già, sì, è molto vizio, bene, è molto vizio, no, non sta bene, io posso capire che un uomo gli scappi la bevuta, questo è normale, ma che uno si riduca in condizioni assurde, no, non va bene. Poi intanto ha avuto la faccia tosta di scapparsene ieri notte, capito? Era tardi mia, no? Verso le 10:30, 11:00 era. Intanto ho messo in difficoltà delle persone che abitano qua, che hanno la macchina che non l'hanno potuta muovere oggi proprio perché l'hanno incidentata e che gli serviva per andare al lavoro. Intanto con le sue ubriacature ha messo in difficoltà la gente, capito? Purtroppo è così. Siamo, riprendi qua. Non è una ragazza, poveraccia, si è distratta un attimo, ha urtato, la macchina si era parcheggiata dietro e come l'ha urtata si è girata la macchina, sono arrivati pompieri, ambulanza, cose, un sacco di gente, vigili urbani, però non si è fatta male, gli fanno male la mano, ma non è che abbia niente di grave, va. L'hanno subito addrizzata la macchina, i passanti, e niente, la macchina, ecco, c'è una bicicletta, sarà un po' distrutta. Il modello vecchio. Nuovo. Che dice adesso? Che colore? Rossa. Che colore è, arancione? Rossa, rossa. Ecco, ma io l'ho vista volando, tutto l'intero l'ho vista, mentre si stava girando. Aspetta, meno male non eri vicino già, che te la poteva cadere addosso, mamma mia. Ui, vabbè, dai, è interessante che non si sia fatta niente la ragazza, poi la macchina già si ripara, oppure se ne compra un'altra, quello non sarebbe un grande problema, anche se è un sacrificio enorme, soprattutto oggi in periodo di crisi, però quello che conta è le persone, che si salvano sempre le persone, poi per il resto, pazienza. Avanti Gianni, Capri 2. Nuova, mi spiace, capisco, purtroppo sono cose che capitano, meglio che sia andata così per peggio. Riprendi, Claudio. Direi, no, ti ho chiesto che colore era la macchina, perché qua nel mio palazzo c'è una ragazza, c'è la Y, però è arancione, capito? E quindi è per quello che ti ho chiesto il colore della macchina, già. Va bene, allora non è lì, l'ultimo per la truppa, va bene, avanti Giulio, riprendi. Ok, qua, invece fa un piccolo pensierino, quando ha un piccolo indizio lo fa sempre, è normale, no? perché siamo così, no, ma anche giusto cercare di arrivare alza il volume in qualche se effettivamente è una rossa o meno, giusto così. Intanto saluto. Ciao Claudio, grazie per questo, ciao Gianni Doppio Rum e Gianni e Capri 2, dai, ascolto il vostro finalino e poi chiudo che mi hanno già sollecitato dalla cucina per scendere alla cesta da cena, vai. Riprendi Gianni Doppio Rum. Ehi, ciao Giulio, ci sentiamo, buona carica e buon tutto. Ciao Giulio, eccoci, no, l'ho spento addirittura tanto, quindi. Ciao, alle prossime, ci sentiamo, stiamo bene, buona carica e alle prossime. Vediamo se ho sentito la voce della verità. Avanti Antonio, sì. Buonasera a tutti quelli che sono una da ruota attualmente, ma con un orecchio da parte e una dall'altra. Perché non è passato? Perché l'ho spenta. Se sono qua non posso stare lì. E quindi l'ho spenta completamente. Tanto due orecchiette stiamo ascoltando qua, sono entrato a salutare a Giulio, a Gianni, a Capri 2. E niente, è tutto bene. Tutto bene, ma perché se innanzitutto ringrazio Gianni, lui sa per che cosa. Saluto Gianni Capri 2, ringrazio Gianni da Bon Room. Ti sento da di basso però, Sparviero, eh? No, sto parlando piano piano, tranquillissimo. Sono un po' stanchino, ero sdraiato nel divano e c'era il volume sollevato perché alle 10 ho sentito che sono entrati. Loro allora mi sono alzato, mi sono seduto qua, quindi sono mezzo rincoglionito, ma tutto bene, tutto bene. Tutto bene, tutto bene anche per me, dai. Gianni Capri 2. Buonasera Globe. Ciao, beato chi ti sente. Ci dobbiamo sentire per la via bassa, ti devo ragguagliare in merito a una cosa, poi ti chiamerò. Rilancio a Gianni di Doppio Room. Va, scappa, rinnovato tutto, dai. Capri 2, allora, cosa ci racconti di bello? Devo mettere un kilowatt per farmi ascoltare o cosa devo fare? Mi sarebbe la radio, vabbè, cazzo, non vai in radio, vuoi già kilowatt. Puoi invocare 2 decibel. Non devo sollevare la radio, perché tu c'è lo basso di radio, segnale. Sono alternata anche. Ma è radio, voce, non hai voce, segnale 960. Non hai voce, manco me ne raccorto io che di tu. Non sto uscendo di radio. E c'è lo basso di radio, c'è un'alternata sotto. Aspetta, le mani non è stato bene mai, guardami. Ah, qua siete. Cos'era? Hanno finito la cigheria, ha finito la riunione. Altro che la cigheria, io ho dormito fino alle 8:10. Certo, non credo la mattina a sera. Ho girato la testa. Sto scendo adesso qua. No, vabbè, stai scendendo male. Sembra che abbia qualche filo del mare che ammassa, vabbè. Aspetta un attimo, Avanti Marcolino Condor, sì, il vero, tu sei il mio mito, sì. Eia, come la cagiva mito, o l'appunto mito. Va bene, mito non mito, comunque, va bene. Hai visto la Capri 2, eh? Gira, è andato a comprare una radio che poi era mia. C'è un bellissimo, si è 80, tanto la fine del mondo. Io ce l'avevo quando ero in via Pascoli, però l'ho venduto a Franco Califfo l'ha venduto ad un'altra persona e lui si è preso il 440, sempre mio, e questa persona l'ha venduta a Gianni Capri 2, ma è una favola così 80 che... Avanti Capri 2. Sto uscendo? Molto parlamentare, no. No, vai su 12 un attimo. L'8:50 Gianni. Sì, va benissimo. Se mi devi telefonare fai pure, mia tu. Sono pronto a rispondere. No, aspetta che mi stanno creando abbattimento, adesso sono andati sul 12, Claudia, cosa? Già ti chiamo in questi giorni. giorni, non è una cosa urgente, ma era giusto perché ti volevo chiedere una cosa. Telefonami. Piani, non ti sento, mi stanno facendo abbattimento Claudio e Roberto Quadrato che si sono spostati sul 12. Sì, anche qui un po' ti sente. Mi senti adesso? Ciao KP2, qua arrivi bene, veramente bene. Santiago 8 con picchi a 9. Sera Marco, buonasera. Anche tu mi arrivi discretamente, ho fatto un nuovo Twitter, hai capito. Però vi devo lasciare che la mia 50 la convoca a scendere per la sera, che mi devo portare, l'ho lascio acceso, hai capito. Poi magari se siete riprendo un po' di quei ricchi, se tanto la notte c'ero leggero. Va bene Gianni, ci sentiamo allora, alle prossime. Aspetto Marco, buon proseguimento, ma rientro dopo perché ci siete, dai. Fatta. Antonio, riesco a passare io? Tu? Scusa, stavo andando ai controlli a Roberto. Il microfono è 60, che andrà a farsi fare in qualla. Tu? Fatta. Bene, dove è Antonio Grobbe? È rimasto lì. KP2 ha fatto quelle tie e andava a cena. Dove è rimasto lì? Ciao Gianni KP2, se mi stai ascoltando, scusa ma... Mi ha chiamato Roberto, c'è una modulazione a tutti perché lui prevale su tutti. Mi sono spostato a darle dei controlli. Dove è rimasto lì, Grobbe? Sono qua, sono qua. Questo è adesso? Sì. Abbassa, che sei troppo forte. Qualca la modulazione, Robè. Sì, ciao Robè, non mi stavo lavando le mani qui, mi stavo, vi ho sentito. Ecco, mi saluto, se faccio quelle ichisi, poi Marti, chi siete dietro. Comunque, un saluto a tutti. Ciao KP2, alle prossime. Abbassa un po' la modulazione, Robè. Sono basso, è subito, vabbè, forse ha fatto un po' troppo la voce, adesso come tutto a posto, forse era lo spinotto, ne ho tolto tutti gli spinotti e li ho rinfilati, probabilmente non erano infilati bene, buh. Questo che cos'è, che microfono è? Questo 1060, L'impedenza quanto ce l'hai? L'impedenza quanto ce l'hai, a 50? 50, sì, solito cosa, non le tocco mai quelle cose, il livello microfonico è a 1, vabbè, lo posso abbassare un pochettino, aspetta un po', adesso è meno di 1. Perché non sento i bassi, sento solo gli acuti. Altre volte ti sentivo bene. Cioè non ho capito, là quelle MC60 non c'ha l'interruttore sotto in out. Che cosa di MC60 è? Sai come le radio, ce ne sono un'invasione di MC60, l'altro giorno stavo parlando proprio con Coso, con chi era, con Marco, non so se lui c'ha un altro tipo di MC60, ne ho visto un altro io con la regolazione sopra del coso, del guadagno, ce ne sono diversi tipi, il mio MC60 normale, non che il tuo non sia là o qualche altro modello. Io ne ho 4 MC60, però tutte e 4 c'hanno il tastino, quello ci ho trovato io con la radio. Quando ti diri la radio, non lo so, mi chiamo Trovata. Cosa c'è? Lo stemmino del trio dove c'è scritto. Dove c'è scritto Kenwood, cosa c'è? Lo stemma della trio? No, del periodo fascista, della Tevecchio. Cosa, Anto? Periodo fascista, c'è lo stemma fascista da quando è vecchio. Ultimamente ne avevano fatto due versioni, poi io ne ho avuto tantissimi di MC60, quindi non mi ricordo. Insomma, con chi hanno le ho dato a Roberto Lavagna, figurati. Molto probabilmente quello lì è la prima versione del 60, e quindi non c'ha il... rimane sempre preamplificato, non lo puoi disinserire come fai con l'MC60, capito? Non lo puoi disinserire, rimane sempre preamplificato, puoi passare solo in presa, mentre questi che ci abbiamo noi, puoi metterlo sia normale che col circuito di preamplificazione. Vabbè, non lo sapevo, vabbè, pensavo avessi quello col tastino sotto in out, capito? Chiuso aperto. No, no, questo non è. Ma questo me l'avevi dato, allora la radio nel 2006 me l'hai data a fine 2006, questo l'ho preso nel 2007, a fine 2007 perché avevano fatto quel lavoro con la Dunis, ti ricordi? Ah, è vero, vero, vero. Sì, avevamo fatto quel cambio con la Dunis. Sì. Allora quella lì è la prima serie che è uscita del 60, vanno bene lo stesso, non hanno il, non si può disinserire il circuito di preamplificazione, rimane sempre inserito, si può solo commutare l'impedenza da 50 a 500, mentre gli altri lo puoi mettere sia normale che preamplificato, capito? Tutto lì, vabbè, è la prima serie, quello è. Ne avevo anche un altro, così mi pare che l'ho dato a Franco, ce l'ha Franco Califfo. Avanti a chi tocca, Gianni Doppierumi, vieni avanti. Gianni Doppierumi non c'è più. Beh, no, auguri comunque, te li rinnovo. Grazie caro, io ti ringrazio, sono 41, tutti interamente versati. Tutti i contributi li hai fatti, quindi se c'è in età pensionabile, tu. Assolutamente sì, assolutamente. Quanto anni hai fatto? Mamma mia. Ottobre che tu sei. Uno è fa 51, invece il 20, mia moglie. Io il prossimo mese assieme all'aria. I miei iniziano a essere pesanti. Vabbè. Pazienza. Marco Condo. Perché di sbaglio ti chiamo Marco Condo, cioè ma Marco sì, niente, Marco in avanti. Vi stavo dicendo che dalle 6:15, alle 8:15 stavo dormendo. Praticamente di notte non mi viene il sonno, invece di giorno mi si induce il sonno in modo terribile. Infatti io dissi ad Antonio, si vede che non fai un cazzo la mattina e la sera. Strano, perché di giorno viene naturale, è proprio tranquillo, di notte invece devo pigliare qualcosa per dormire. Io invece come troppo vicino sono già in catalessi, a me mi viene sonno, oddio, mi si chiude un po', mi si chiudono gli occhi dopo pranzo, mi siedo lì nella poltrona a vedere un po' di TV, boom, calamaiato, ma questa cosa dura una mezz'oretta, forse neanche, e poi subito mi alzo, ma mi siedo qua e mi basso a dormire. Capito, sono per la sera rinchiuso qua in cabina di regia, niente, vabbè, avanti Gianni Doppierumi, riprendi. Cos'era, in macchina? Sì, deve essere sceso lì per dare 16, se si è capottata una macchina, ma ragazzi, non si è fatto niente. C'è una vigile del fuoco, vigile urbana, non si è fatto niente, e quindi deve essere sicuramente lì, capito? Avanti Roberto. Sto uscendo bene comunque adesso, dai, l'importante non me la risolvo, mi stavo salventando, ho detto cos'è, pure questo, problemini, e ogni tanto i contatti bisogna pulirli, dai, certo, probabilmente non è tirato bene, e stava, c'era la naturale comunque, sto guardando di sfuggita, sarà iniziata adesso, pensavo di essere più tardi, alle 8:30, invece che adesso, tanto, sono già alle 8:30, pensavo fosse prima. L'abbiamo aiutato a scendere le scale e abbiamo portato mia sorella a fare un giro in macchina per prendere aria. Vabbè, dacci il passo, è che quando io sto rientrando tu stai aprendo. Il vero dubbio è che io passo lì verso le 2:30, 3:20 e tu stai aprendo. E a quell'ora sono a pezzi, non vogliamo anche scendere dalla macchina. Ma già posso trovarti. Quindi domani mattina ci passo. Domani mattina ci passo a trovarti, che sono a riposo, lavoro domenica, tanto devo andare a posta. Fare un paio di commissioni. E dopo mi prendo il caffè e ci passo a trovarti. Tanto tu ci sei presto. Sì, tanto domani non devo andare neanche a portare le ragazzine a scuola. Vado solo a prendere il pane presto alle 8 e basta, poi se alle 11 già mi trovo. No, io lo sai, sono pubblico là. Io alle 8 sono già alle poste, se no poi si riempie, mi si girano i ministri, capito? Oppure fai il conto corrente, luce, altre cosettine, e poi posso trovarti. Ok, Robe, tu, sempre saltando la mappa. Scusatemi un attimino, riprendo subito fra un attimo. Chiamarlo Grode, bica disinvolto, lo chiameremo canguro adesso. No, aspetta un attimino, riprendo subito, ci ho il dattore in mano, perdonate. Sto prendendo il tuo segnale, volevo capire, siccome non avevo ancora avuto il piacere di sentire il tuo segnale, cioè di vedere, non di sentire. Tu sei 9:40 spaccato con i picchi positivi, lo superi. Ti ringrazio, caro. Riprendo subito, abbiate pazienza un secondo. Quasi quanto Fabrizio, ma Fabrizio è un peluzzino, cioè quasi vi equivalete come segnale, per cui ti andranno bene grazie, ma la mia antenna è sempre in terra. Il giorno che la metto su li cancello tutti. Ah, non l'hai messa su, io pensavo che la messa portata su, quindi è rimasta la testa della moschera, eh? Non solo, come è arrivato il tifone, me l'ha rovesciata e mi ha fregato un paio di radiali, ma in questi giorni la metto assolutamente su e vedrai, schiaccio tutti, preparati. Quale tifone? Tranne uno schiacci. Quale tifone? Tifone, quello del piccolo tifone, è una malattia che si prende da bambini e dopodiché cresce con l'età. Tranne uno altro schiacci però, non ricordi che ormai sei in mezzo al triangolo delle Bermuda. Allora, qua a Claudio non so quanti kilowatt dovete mettere per passarlo, io penso almeno 10 kilowatt, perché considerando che siamo attaccati non penso più di 10 kilowatt, non rifate niente. E poi c'è Pompugno, come potenza, che non credo lo stesso potete superarlo. Io almeno che sono proprio di città, non servono a niente, per me se finalmente può competere un po' con tutti, ma come in particolare, perché siamo veramente vicini e abbiamo anche due un'ottima posizione, io rimango un po' più in alto, però lui c'ha una bella fascia di aperture sia a nord che a sud, è un'ottima zona quella, ottima veramente. Io ho avuto modo anni fa di andare a casa di un collega, un carissimo amico che abita proprio lì vicino a te, e avevo il portatilino, riuscivo a eccitare Monterraggio col portatile, è favolosa quella zona, veramente molto molto molto aperta. Vabbè, no, io continuo a usare la direttiva, ma in 27 non mi fatti bene, tanto arrivo a tutte le parti benissimo, e quando poi non arrivo a giro è sempre fermo a nord. Quando mi ieri c'era il centro moro, arrivava segnale 2, quella mantova mi arrivava 9, ho girato l'antenna a 210 gradi a sud-ovest, 9 più 20, vabbè, funziona. Penso di sì, è tarata per 10 metri, però è sempre 10-11, insomma, lavora benissimo, e quindi mi diverto di più, aumenta i segnali, diminuiscono, non c'è problema. Se sopra proprio prende l'angolo tuo e l'angolo di Luca, fate a Luca, gli arrivo sul più del 9 più 30 del coso, del baracchino che c'è. Marco, a te quanto ti arrivo così come a nord, tu sei leggermente a 330 gradi, io ci sarò a 0 gradi, tu sei leggermente a 330 gradi, quindi dovrei spostarla leggermente verso nord-ovest, leggermente, però ti prendo quasi quasi, sì, 9 quasi più 30, sì, tu qua, non ti ho mai visto questo segnale. Allora, questo apparato arrivi 9.22, strano che io arrivi di più, io ho solo, quanti watt? Solo 20 watt sto usando. No, è la tua recensione con la mia, io ho quasi 13 dB di guadagno con un'antenna a polarizzazione orizzontale quasi sopra di te, è chiaro che... Allora adesso provo a girartela leggermente, ok, allora te la giro leggermente, ecco qua, 330 gradi, prova a parlare. Ecco, guarda, la portante è muta soprattutto, eh. Ecco, prova a fare un passaggio tu, hai anche la portante muta. Da 9.22 a 9.28, 6 dB di guadagno. Aspetta, rimetto com'era. Te ne accorgi se vuol dire girare l'antenna. Ma dove arrivo invece a te, coso, Marco? Premi, aspetta, la portante muta metti. Tu sei 9.30 spaccato da me. Tu sei qualcosa come 9.26. Modulati 9.30. Sei d'accordo un attimino, che qua c'ho un po'. Accordato. Ti conto che Roberto ce l'hai più avanti di me. Lui ha polarizzazione verticale, io sono polarizzazione orizzontale. Quindi immaginati tu la differenza che c'è tra la polarizzazione orizzontale e quella verticale. Però vedi come la giri, subito aumenta il segnale. Da 20 27. È perché con la, da, da orizzontale a verticale c'è, c'è una perdita. Se io fossi in orizzontale puntato su di te ci avresti fondo scala. Infatti io riesco a portarti ad aumentare il segnale, ma tu a me no. È lì la differenza. Vabbè, tornate e ci sentiamo poi, per l'uso che ne faccio anche io. Mi sto sentendo, ti ha chiamato? Truce ti ha chiamato l'altro telefono, va bene. Ok, vediamo se Gianni Occhiorrutto è ancora lì per fare segni. Gianni? Si sarà capotato anche lui. Sì, non essere sceso a vedere un po' la, la situazione, va bene. Avanti Roberto. Guarda un po' se cambiava qualcosa Marco, da così? 9.30 staccato. Tu però mi arrivi con i picchi super di 9.30, lo sai Marco, non capisco per quale motivo. Perché mi dai un segnale più basso tu di quello che ti do io. Ma sì, non so se sia più tirchio questo, eppure è lo smitter del, del 140. Allora, io ho 20 watt portante muta, modulati sono, hola, hola, sono 25, dai, non cambia molto. Scusate, mi ero riprendendo un attimo. Dicami. Io vi devo salutare. Ciao Roberto, ciao Sparvieros e anche a Kundom. Ci sentiamo più presto, sono un attimino impegnato, anche piacevolmente impegnato. Fate di bravi. Casa piena di donne, non hai capito. Mi piacerebbe che a te non ti interesserebbe comunque la cosa, quindi non c'è problema. Ciao, vi saluto, adesso non è finita. Ciao, ciao, te lo posso salutare. Avanti, Roberto. Tanto a te tu fatti sentire, dai, buon tutto e farà bravo, dai, oggi non ti ubriacare che è una giornata speciale per te, dai. Papa, ma il compleanno era oggi, ho capito bene, 41. È il compleanno, non è ancora passata, tu ci devi ancora arrivare, se ci arrivi. No, io veramente ne ho 42 Antonio. Cioè, auguri Antonio. Buon compleanno. Grazie caro, vi ringrazio caldamente, QRT per me, Antonio il Grode chiude le trasmissioni, ciao ciao. Ciao Antonio, ciao, di nuovo tantissimi auguri, buon fine serata. Continuiamo tu. 42 Roberto, questi giovani cieli per fare il bene, avevamo di sigaretta, 14 più di te ne ho Marco, cish, che vergogna, mamma mia, che vecchio. Comunque, Marco Marconi ha fondato un decine di multi. Sì, già l'ho sentito stasera in diretta, la vita in diretta, mi ho fatto vedere. Sono uscite 4 motovedette, per carità, che ha fatto 200 persone in un barcone, il minimo ne portava 20-30, se dovrebbe capitare, cioè stanno ancora recuperando, sono già 300, oltre 300 morti, e stanno ancora recuperando, adesso di nuovo, io ho premesso una portaerei lì, della Marina Militare, una nave da guerra lì proprio a Lampedusa, è il primo che si avvicina e che l'ha ammazzato. Sono rientrato. Sì, è allucinato, non so, boh, questa roba sta diventando una cosa allucinante. È bello che passano tutti qua per l'Italia. Noi non siamo in condizione di accoglierli, però non li vuoi manco ammazzarli. Il coso in altre a Malta, se si avvicina a Malta li sparano, se ti avvicini in Spagna ti sparano. Negli Stati Uniti, se provi a entrare dal Messico verso gli Stati Uniti ti sparano. Qua in Italia purtroppo se non trovano qualche soluzione e non che viene problemi grossi. Ma una cosa schifosa, cazzo, che mi gira le balle, perdonate il linguaggio, è che i maltesi, stasera, i maltesi hanno saputo che c'era, tramite la guardia costiera maltese, hanno saputo che c'era questa barca in avaria, cazzo, non sono intervenuti, capito? Brutti animali che non sono altri, stiamo parlando di cristiani, capito? Stiamo parlando sempre di cristiani, non ci dimentichiamo mai. emigranti, di qualsiasi, ma stiamo parlando di cristiani, brutti bastardi che non sono altri, capito? Potevano benissimo salvarli, perché la barca era appena, si stava inclinando, ha fatto in diretta, stasera, a Rai 1, la barca si stava inclinando, quindi si poteva tranquillamente non arrivare nuovamente a quello che è arrivato prima. Quindi sti cazzo di maltesi non sono intervenuti per niente, e quindi automaticamente sono partite quattro motovedette nuovamente da Lampedusa, due della Guardia Costiera e due dei Carabinieri, capito? Questi figli di puttana. Posso, è una vergogna, poi perché sono i primi a cercare aiuto quando c'è qualcosa, è quello che non capisco. Noi siamo il coso, la beffa di tutto il mondo, cioè siamo disposti a tutto, però l'Italia non aiuta nessuno, adesso siamo in difficoltà per questi emigranti. Ce ne sono di puzzi dove potrebbero portarli, nulla, non ha tutti nulla a nessuno. Adesso ha fatto un po' di scandalo questo fatto di tutta questa gente, con la ciamusa, ma io non riesco a capire pure loro, perché dico sei in mare, mi chiedi di fare una bella attraversata, dura anche una settimana con la attraversata, è organizza di burundù, muore di giubbotti di salvataggio, cose che ti permettano se cadi in acqua, invece non li vedi tutti i magliettini, i pantaloncini, roba leggera, buh. Scusa Marco, ma la legge del mare parla molto chiaro, chiunque abbia necessità, chiunque sia in avaria, chiunque lanci un SOS o via radio o via aria, come cazzo voi, debbono intervenire tutte le autorità marittime, tutte. Quindi a Malta c'è veramente da sputtanarli, perché dovrebbero intervenire loro stasera prima di partire le motovedette da Lampedusa, e non sarebbe successo quello che è successo. Avanti Marco. Ma poi Malta chi credono di essere? È uno sputo nel mare, se li tiri una cannonata ne affonda l'isola. Tu prova avvicinate, beh, cosa ti fanno, prova avvicinate, non hai compreso, chi si sono a sé, non li comanda nessuno. No, ma cos'era, un barcone di gente dell'Africa? Di tutto via. Ah, loro sono musulmani, non cristiani, ecco perché non li hanno soccorsi. Sì, ma Marco, possiamo dire tutte le cogliolate che vogliamo, stiamo parlando dei cristiani, capito? Se io lancio un SOS dove viene vengono attivati i soccorsi, devono partire tutti, chiunque, capito? Chiunque, invece loro non sono manco mossi, cioè capito, non era fottito nulla, niente, e quindi automaticamente l'SOS è stato decapitato alla Guardia Costiera di Lampedusa e sono partite quattro motovedette. Nel momento in cui sono arrivati il disastro era già fatto, tutti a moglio, capito? Il problema è che ci sono bambini e sono cristiani come noi. Probabilmente a Malta bisognerebbe che tutto il Mediterraneo li chiudesse e gli girasse la faccia, capito? Lasciasse come asini. Vabbè, purtroppo non tutti sono come gli italiani che sono anima e cuore. Guarda, adesso ho messo Google Maps per vedere la distanza che comunque l'Italia ha segnato adesso. Una delle ci avrete segnato Osvaldo mi pare, numero 10, guarda, non so chi sia. Sì, Osvaldo. E sto guardando la distanza tra Lampedusa e la costa della, diciamo, del paese più vicino, Monastir si chiama, è la costa lì, non so di che nazione sia, come Tripoli sicuramente, la Libia, cosa del genere, Libia o Marocco, sono circa 100 km di distanza. Malta viene dopo, sono altri 120-150 km da Lampedusa. Non abbiamo preso chi si gira nel fatto, perché poi c'è Pantelleria, cioè dove hanno superato Lampedusa, perché il primo paese, la prima terra che trovi è Lampedusa, dopodiché c'è Malta per andare verso la Sicilia, diciamo. Però devi considerare che lì sono già le coste tunisine, perché se tu dalla punta o di Palermo o giù di Catania, c'hai sicuramente da Catania più vicino Malta, perché c'è l'isola di Valletta che è proprio attaccata alla punta, proprio la punta sud di Malta, e poi verso Sos praticamente possibilità di fare accudire a queste persone qua. Poi c'è Pantelleria che più su, non pensavo, sicuramente non l'avevo mai visto io la cartina come riferimento, pensavo Lampedusa fosse più verso la Sicilia che verso Malta, invece risulta più in basso, più a sud di Malta come posizione geografica, non ci avevo mai fatto caso. Pantelleria è abbastanza vicino alla punta della Tunisia, saranno 80 km, 70 km, non ci ho preso perché ci mettono una settimana, a meno che questi non partano da qualche altro porto anziché partire dalla Tunisia, che poi partano magari da qualche porto giù dalla parte bassa dell'acqua. Sicuramente, però quelle cose lì hanno passato. Ecco qua, quelle cose lì praticamente sono tutte considerate a rischio, non ti devo avere denaro, è un casino, non lo so, vabbè, comunque. Signori, io vi saluto, vado a cenare, sono venuto qua, mi hanno già bussato la porta qua. Ciao Marco, ciao Roberto, piacere di aver ascoltato di nuovo, un saluto circolare a tutti quelli che ascoltano. Passo in QR Tango, alle prossime, signori. Avanti Marco. Come sa, non c'è più. Comunque ciao Claudio, oggi ci sentiamo. Se vuoi passa l'anno di Biati, già lo sarò verso. Buona sera, buon tutto. Vai Marco, se ci sei, se sei entrato. Intanto sei lontano. No, domani mattina già posso trovarti. Ci facciamo le chiacchiere. Tanto te lo devo andare a posto, fare qualche altra commissione. Fortunatamente ne ho lasciato libero, tranquillamente mi faccio domenica mattina, intanto quando esco io e rientro gli amici si stanno alzando dal letto, quindi non mi fa nessun problema perché esco alle 6:30, 10:30, 11 sono di nuovo a Sassari. Va bene, dai, ci vediamo domani mattina, Roberto. Marcolino Condo, riprendi se ci sei e se no prenditela nel QSO. Allora, non so chi stia andando via, Roberto, mi pare. Ho cambiato baracchino, stavo vedendo il segnale, la differenza. Praticamente con questo siete uguali, perché non ha spazio per far vedere bene le differenze di segnale. Come sto uscendo? Sto andando via io, Claudio. Prova a vedere se ho il segnale, poi chiudo che è pronta la cena. Prova. No, più che altro mi interessa la timbrica dell'apparato. Questo è il Superstar 3009, che ha un mic normale, non amplificato, tutto di serie. Non è malvagia, Marco, la modulazione è abbastanza chiara, presente, è abbastanza buona. Il segnale è 5 dB meno, 6920, perché 925, modulato 27. Comunque non dispiace, ultima modulazione. Ok, dai, ti saluto, vado a cenare, Roberta, e ci sentiamo, ci vediamo domani mattina. Buon notte a tutti. Sì, ciao. Ok, fatti sentire un attimo, Marco. Cappa. Allora, con questo sono 9 watt, a 10 non ci arriva. L'altro era 20 watt, modulati 25, qua sono 9 e basta. Vedi un po' come va. Superstar 3009. Versione blu, con display blu. Se in EVP25 il segnale, modulazione buona, leggermente predominante di tonalità medie, magari vorresti un po' di acuti e un po' più di bassi per essere ottimale, comunque è buona, più che buona la modulazione. Io usavo questa macchina, uso questo, però mi sta solidificando l'idea di quell'altro apparato. Va bene, comunque Claudio, ciao, buona serata, se capita ci sentiamo più tardi, se no vabbè, domani. C'è andato. Va bene. Ogni tanto sento il bisogno di un normale baracchino, lo sai, che è una sintonia continua. Ti faccio sentire un baracchino mio adesso, al volo, un secondo, tanto un attimo. Fai, tanto io sono qua, è arrivata mia zia, quindi mi ero sentato un attimo. Hola, lei già sale, dai. Robe, sei bassissimo. Scusa, se avevo un'antenna commutata dall'altro baracchino, adesso dovrei uscire. Sì, ma senza antenna, Ivi, o con l'antenna interna? Senza antenna, se avevo commutato sull'altro baracchino, senza niente, come che non avessi. bassa antenna. Il cacchio. Praticamente stavi arrivando qui Santiago 2, che corrisponde al K, corrisponde a Santiago 6 e mezzo. Figurati se tanto è andata luce, non avevo girato il computatore. Qua adesso ti arrivo con questo. Bene, bene. Mi piace. Adesso naturalmente sto ascoltando il baracchino, quindi è piuttosto limitativo. Però limpida, chiara. Questo è un vecchio baracchino da canali base della Apache. Sto utilizzando un tablet come microfono da base. Ecco, sì sì, niente da dire. Vabbè, Turner un pochino quasi si capisce, ma poteva essere anche un altro, io d'altronde non ho l'orecchio allenato per questi microfoni. Faccio anche un altro baracchino, aspetti, faccio sentire anche un altro, questa è un'altra cosa però. Vai, prova. Commutami, commuta. Sono Marco. Stavi controllando quell'incidente? Sì. Tutto bene. Si è fatta male o no? Alla mano un po' li faceva male. Hanno portato via l'ambulanza, ma è stato per fare accertamenti e basta. Ma ho capito bene, ha capottato con la macchina. Allora, ha avuto un attimo di distrazione. Ha toccato la macchina parcheggiata di lato, quella lì praticamente gli ha fatto puntare la gomma e addirittura gli ha spostato l'asse all'altra macchina. Che cacchio, adesso gli deve pagare la macchina mia. Esatto. E doveva entrare Roberto con un apparato, Claudio ha chiuso o no dello stesso? No, vabbè, c'ho il microfono a batteria scarica, quello lì, dai, ritorno solo di nuovo col pace. Mi ascoltate? Ciao Roberto, buonasera. Ciao, dove sei? Sono vicino a Piazza Vecini, dai. C'è stato un incidente stradale, mi sono fermato a vedere. Ma c'è stato un incidente stradale? In quella via che va a Piazza Vecini, dove c'è il semaforo, dopo il semaforo, questa tipa si è distratta, ha urtato una macchina, ma un bel lutto, l'ho spostato l'asse di dietro a una Volkswagen di quei sub della Volkswagen. Si è spostato praticamente la parte posteriore e poi ha capottato di lato. Come città? Allora, via Martino. Così mi è arrivata una ieri, un'amica in officina, questa proprio deve ringraziare un santo che le ha salvato la vita, meno male, si è sbattuta frontalmente, non c'era via quella dove c'è la motorizzazione. È uscito un camion in sorpasso, non l'ho visto, stava arrivando la macchina, l'ha presa in pieno frontale, una Hyundai Matiz. Tu vedi come te l'ha fatto la macchina, meno male c'era le airbag e le cinture con i protezionatori, gli ha sfasciato un paio di costole, però gli ha salvato la vita la macchina, la cintura e l'airbag, se no sarà ammazzata. L'ha frantumato la macchina ed era tranquilla il camion, dice, mi ha visto questo camion di colpo, un camioncino mi ha preso in pieno, e quello gli ha detto, non ti ho proprio visto, scusami, meno male non c'era, c'era una bambina piccolina di 4 se era stata la bambina la viene ammazzata. Per carità. Molta gente è distratta guidando roba e bisogna stare molto attenti quando si guida. Infatti tutti mi dicono ti ho salutato e non mi ha risposto. Io quando sto guidando, non è che guardo, sono attento alla guida. Poi c'è troppa gente col cellulare in mano, all'orecchio. Ma questa ragazza poverina non è patentata, ha detto che ha visto come un pericolo qualche cosa non vedo, c'è roba genere, ha sterzato, ha toccato questa macchina dietro, come l'ha toccata si è puntata la macchina e ha capottato di lato, io ho visto la macchina proprio capottando, infatti sono andato subito per l'aiutare a girare la macchina per metterla dritta, e meno male che non c'è uscita con la testa fuori dal finestrino, perché era il finestrino aperto e ha capottato proprio dalla parte dell'autista, là. E quindi gli ha dato anche bene. Le cinture aveva? Sì, aveva le cinture, tutta regolare, era una ragazza che un anno fa e tutto ci aveva preso la macchina da poco, era mai più rossa, nuova. Purtroppo i neopatentati spesso li vedo sbattersi, tirarsi a pali, bisogna fare un po' di esperienza. Lei ha detto che praticamente è stata una distrazione, ha cercato di sterzare per evitare, forse ha visto una ma che ne so. Quante volte succede anche a me, magari quando sono sulla strada, magari che punta di fuori dall'altra parte, sembra che attraversi qualcuno e si vedono le ombre, capito? Di notte specialmente. Vabbè, capita, può capitare. Avanti Roberto. Aspettate un secondino, attimo. Io ho sentito la voce che sembrava la tua, il bip è tuo. Come sono arrivato alla radio già non c'era più nessuno. Allora, ma perché sono sceso subito? Ho avvisato che era capottata la macchina davanti a me. Io l'ho fermato al semaforo e l'incrocio dopo è successo, capito? Quindi l'ho vista proprio in pieno capottata. No, io ti sto parlando delle 5. Ah, io ho chiamato, ho fatto la chiamata ma non ho nessuna risposta. Io ho sentito la chiamata, sono arrivato un minuto dopo, no nemmeno, 30 secondi dopo, ho risposto ma non c'era più nessuno già. È entrato Giulio, abbiamo fatto mezz'oretta di chiacchierata. È fatto tu, dai. Ma non ho visto che c'era Claudio stasera, c'era un po' di gente, dai. Roberto, sì, allora. Sì, sto facendo tre cose contemporanee. Questa modulazione mi piace, quella piena. Piace? Adatta. Quella chiara. E questo è il vecchio baracchino che usavo sempre, il vecchio pace della guerra. Ma già si era da fare, raccontarne su tre. Sono apparati che arrivano qui. Adesso per far camminare gli altri tre trazione stazione base, però sono le batterie sporche, mi sporche scariche e poi bisogna pulire il coso, vari potenziometri, perché non li ho più fatti andare da mesi, bisogna controllare se c'è qualche sticchiolio o cosa del genere. Questo non lo raggio mai educato, è sempre andando. La batteria ce l'avrò 3 anni, è sempre la stessa batteria e sta sempre andando. Vabbè, quindi non bisogna lasciare la batteria se la si usa, perché poi se si usa dalla roba e questa la macchetta. Sì, no, vabbè, quello l'ho visto, naturalmente. Rubata la fontana del Rosello, hai visto quella cosa che hanno messo sulla Nuova Sardegna a fare, è farsa. No, non ti ho fatto caso. E di questo che hanno trovato la Troce, lui la sapete, questo ragazzo morto. La Troce? Dice che ha trovato un ragazzo morto dentro una macchina. Pregando. Stasera lo stava dicendo Giulio. Aspetto su salsa di notizie a vedere cosa dico. No, non ne sapevo niente, ma d'altronde stavo riposando di sera e non ho guardato di nuovo a Sardegna. Non penso sia successo stasera, perché Giulio l'ha sentito da una signora, è andata a comprare lo supermercato e l'ha sentito da una signora, dice. E ogni tanto c'è qualcosa. Io mi ricordo, a proposito di pace, nell'84, in estate, il primo apparato che abbiamo incontrato erano 2 pace portatili. Uscivano talmente male che non riuscivi a comunicare, era proprio così, uscivano. Niente da fare. Allora sono andato da Scarpa, gliel'ho restituiti e ci siamo fatti dare 2 Great, sì, 3 canali. Quelli andavo veramente bene. Io invece il primo apparato che ho avuto è la Fayette portatile 3 canali e 5 watt. Ma andava benissimo. Quello che me l'ha venuto dice che era da riparare, invece c'erano solo i quarti invertiti. Gli ho invertito i quarti e è andato bene. Invece mi aveva messo male i quarti. Allora, io mi ero reso conto di una cosa. Se tu invertivi i quarti, andavi sui canali sotto, lo sai, finivi sui canali sotto, però succedeva che poi questi quarti si rovinavano, probabilmente invertiti non possono lavorare, dopo un po' di tempo si bruciavano, non lo so. Ti dico una cosa, con questo portatile io ho parlato anche con Alghero, capito? L'ho attaccato alla Gran Pre e ho parlato con Alghero tranquillamente. Eh beh certo, qual era, quelli da 1,5 watt o quelli già da 3 o 4 watt? Era 5 watt e 3 canali. Ah, 5 watt. Chissà che modello era, ne hanno fatti un bel di modelli. Oia. Va bene. Era tutto un ferro, praticamente con l'antenna di quelle lunghe e anche con l'antenna sua andava bene, nei dintorni e anche girasse a salire, riusciva a parlarci. Sono di molti, non c'è scritto niente, c'è scritto un arretrato 61enne a Santa Maria di Pisa con 224 dosi di cocaina. Lì ho capito. Io a Natale quando faccio le consegne lì, dei cesti e cose, temo, chiudo tutto il furgone. L'altra volta non trovavo questa cosa, sono tornato anche tardi per vedere se li trovavo questo portone allucinante, tutto scritto, faceva paura solo entrare. E c'erano dei tossici sotto, io lui ha detto aiuto, dammi, me la dai. Dice non te la posso dare, io dico non ne ho questa. Io ti prego, dammela io, ti ho già detto che la te la posso dare, io se non te la dico come un cane a far faccia, ci stavamo bisticciando, guarda. E io ero con mio figlio perché è venuto a farmi compagnia e non sapevo più dove andava. Alla fine poi meno male l'ho trovato. Per aver fatto una piandana per un uscito che si è fatto un tipo di 24 anni, una donna a piandana e se la scorsa dentro la casa stava con letta, me la lasciava fare uno a te. Sì, e io che mi stavo guardando tutti questi inseguimenti della polizia, roba di arresti, roba del genere, hanno arrestato questo tipo che aveva scippato questa donna, gli hanno descritto come era vestito, sono andati e l'hanno beccato subito alla stazione Termini lì. E praticamente l'hanno preso, l'hanno messo in mano e detto guarda che non ha fatto nulla, cosa volete da me? C'era un paio di mazzo di chiavi attaccati ai pantaloni, l'ho sceso e mi ha detto dove abiti? Io non ho fissa dimora, io sono albanese, non ho fissa dimora e non ho casa. E queste chiavi, io ho detto, no queste non sono di casa. Dice ma cosa pensi che io sia andato col dito in bocca? Sto ascoltando un attimo la telegiornale, stanno dicendo erano altri murti di una barca si è rovesciata, altre decine di murti. Oi, io li ho mandati vesti. Qua mi dispiace per questa gente, però stiamo sbarcando tutti qua e noi stiamo facendo venire tutta la gente da fuori, cavolo, non viene per noi, no. E poi pagano per andare incontro alla morte, va per carità, li fanno pagare delle cifre esorbitanti per poi non avere né sicurezza né niente. Sentito già, c'era una barca che si stava rovesciando di questi qua e Malta non li ha soccorsi per niente, se ne fregano, sono intervenuti da credo. E dice che Malta è uno di quei paesi che se ti avvicini alle coste spara, capito? Ognuno ha le sue leggi, capito? Ognuno ha le sue di leggi. Certo, non è da persone umane comportarsi così, se vedi qualcuno in difficoltà non aiutarlo. Ma ognuno ha il suo modo di gestire le cose. Certo che, ma è un po' una coroniata. Qui questi maltesi credono di essere chissà che cosa, boh. Ma hanno a che fare anche con i cavalieri dell'Ordine di Malta. Certo, sì. Malta è proprio la città dell'Ordine di Malta. Lo dice questa la parola, sì. Cosa ti stavo dicendo? Non c'è scritto nulla qui di roba di questo ragazzo. È successo stasera, probabilmente ancora la notizia non è stata diffusa. Quello tassa di news sono abbastanza veloci, molte notizie lo sapevo prima che quelle sono pubblicate su internet, cioè su Tisca e cose del genere, ma non ho letto niente, c'è soltanto di questo di, ma cavolo si chiama, questo che hanno arrestato, di questo dello scippatore, altre cose non ho letto niente. Adesso do un'occhiata, un attimino. Cosa ti stavo dicendo? Poi bisogna vedere anche le cose che ci sono dietro. Hanno intervistato degli abitanti lì dove hanno sbarcato questi profughi. Dice che in mezzo ai profughi ci sono persone che rubano, uno si è trovato l'appartamento aperto, si è trovato gente dentro casa, e un altro lo stesso gli hanno rubato tutta la roba che aveva in casa, ha trovato la porta aperta, pensavo fosse il figlio, è entrato dentro e gli hanno svaligiato la casa. ci sono tutte le parti, invece il muro italiano, così diciamo, già, ma la maggior parte sono poverini, cioè, io temo più quelli dell'est che questi africani, sinceramente. Sì, con gli albanesi sono micidiali, io ho un amico che fa la guardia giurata lì a Verso, vicino a Treviso, e mi ha detto che un suo collega praticamente l'hanno messo a fare la guardia in queste ville, in questo villaggio, da solo. Dice che praticamente questo qui se gli stava andando incontro e cosa là, è riuscito praticamente a bloccarlo. Quando stava bloccato sono saltati dal tetto altri due, l'hanno picchiato a morte proprio, l'hanno lasciato in terra e gli hanno rubato anche la pistola. Sono un bel delinquente, per carità. Infatti lì ci va solo gente salve siciliani a fare la guardia giurata, non ci va nessuno. Marco. Niente da fare, deve essere cosa molto recente e quindi niente da fare, vabbè, tanto ci sarà domani. Chi c'è rimasto? Io. Oh, Gianni. Io. Devo chiudere io, dai. Ti saluto a tutti e due, ciao Gianni e ciao Marco, alle prossime, ciao ciao, volete da parte mia. Ciao, vabbè, dai, buon poveretti, dai. A domani. Avanti, Marco. Ciao Roberto, buonanotte. Oh Gianni, anch'io mi assento che vado a buttare la spazzatura e poi rimango un po' qua a parlare, dai. Non qui alla radio, è qui in casa. Ci sentiamo Gianni. Ciao Marco, anche a te. Buon corretti, dai. Ci sentiamo domani allora. Eia, a meno che non entri dopo. Vediamo, aspetta. Ola. Vabbè, parlare da vicino è meglio, vabbè. Ciao già, vediamo se dopo rientro, non lo so, vediamo se accendi tu anche. E vabbè.